chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Ben ritornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti che questa sera sono in controtempo. Allora, 98.6 la bassa veronese, zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per zona lago e anche in streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Continuiamo saltando negli anni 70 con alcune formazioni rock americane di grande successo in quegli anni. Siamo partiti con gli America, di brano Ventura Highway, dal disco Homecoming del 1973. Le sognanti armonie West Coast del popolare trio, a distanza di così tanti anni, fanno ancora emozionare e sembrano davvero non avere tempo. Che ne pensate? Ah, questo qua è un genere che io amo tantissimo, no? È un genere che scalda il cuore, cioè anche perché a me piacciono tantissimo le chitarre acustiche e poi anche a me le armoniche, anche se in questo brano non c'erano, cioè poi è un genere che racconta le storie, no? Una cosa che oggi spesso si è persa nella musica, no? Anche solo la prima frase, cioè una canzone che dice, che parte dicendo masticando un filo d'erba e camminando sulla strada, cioè ti catapulta in una dimensione quotidiana però piena di magia, no? Dove i gesti tecnici questa qua è una deformazione calcistica, dove i gesti semplici, no, si riempiono di significato, e quindi è una cosa per me molto bella, è un tipo d'atmosfera stupenda per me che cioè, proprio, sì, non ha tempo, come hai detto te, perché questo tipo di quotidianità qua è qualcosa che riesce a comunicare a ogni tempo, quindi anche a distanza di decenni. In tutti i giorni eroi è il titolo del vostro disco, una frase che tutto sommato si spiega già da sola, ma vi chiedo magari di spiegare di più nel dettaglio cosa intendete nel titolo del vostro CD. Allora, in tutti i giorni eroi vuol dire sì, questa cosa mi ha detto anche rialzandomi a quello che ho detto prima, no? Eroi non nei grandi eventi che possono succedere una volta ogni tanto, ma nella certo. quotidianità, no? Ogni bambino sogna di diventare grande, fare grandi imprese quando diventa grande, poi spesso la società di oggi rimpicciolisce questo desiderio in chi arriva primo è furbo, chi arriva secondo è un fallito, e questo non genera felicità in nessuno, no? Invece in tutti i giorni eroi è riscoprire proprio la bellezza di ogni persona come unica, che è una favola da scrivere attraverso ogni giorno della sua vita, no? Vero Pozzo? Direi proprio anche mettere, diciamo, la lente di ingrandimento sul quotidiano, e quindi la magia del quotidiano, anche il sogno che c'è dentro il quotidiano, e anche parlare della gente comune, voglio esatto, dire. Esatto. Questo che è l'argomento del nostro videoclip che uscirà tra pochi giorni e di cui dopo avremo un po' modo di parlare, insomma, in cui i protagonisti della canzone è una squadra di hockey su carrozzina, no? Disabili che giocano al meglio quello che hanno, no? Senza fermarsi a lamentarsi. Nel 1972 esce Toulouse Street, il secondo disco dei Doobie Brothers, storica band californiana caratterizzata dal sound americano con numerose influenze nel sound. Da quel lavoro la canzone Jesus Is Just a Ride With Me. Riuscire ad ottenere un brano di impatto cercando una complessità strumentale e allo stesso momento un'armonia vocale straordinaria. Che ne pensate? Che è straordinario, perché prima di tutto, insomma, la tematica e anche un po' la musicalità di questo brano qua ricorda un genere che non è tanto nelle mie corde, ma che mi affascina tanto, che è il gospel, no? Certo. Che, cavolo, è una parte integrante americana, voglio dire. Infatti, che poi è una musica proprio di gente liberata, no? Che riesce, insomma, partita da mi affascina perché è nata dagli schiavi, che erano schiavi tu, certo. E loro riuscivano a guardare più in alto del problema che avevano, no? E quindi quando un tipo di testo del genere che riesce a guardare la vita guardando un po' più in alto, alzando gli occhi, si unisce con l'energia della musica rock, come succede in questo brano, per me è la cosa più bella che ci sia, no? Si uniscono finalità che mi appassionano, un testo che mi lascia a bocca aperta e l'energia del rock, quindi Vostri ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione delle vostre canzoni? Allora, gli ascolti musicali sono i più disparati, diciamo così, all'interno del gruppo. Principalmente comunque c'è il rock melodico italiano e poi ci sono diverse influenze. C'è, diciamo così, chi ascolta molto la musica inglese, chi come me viene anche da un ascolto classico. Una cosa che, diciamo così, che utilizzo per riallacciarmi anche a quello di prima, quello di cui si parlava prima, cioè la varietà, certo, e la ricerca che ho sentito nel pezzo prima è qualcosa che proprio può emergere dal fatto di lasciarsi influenzare, di ascoltare molto, di non, diciamo così, di essere sempre alla ricerca di qualcosa che soddisfi, ecco. Infatti anche i Doobie Brothers, no? Noi conosciamo con Long Train Running, così li conoscono tutti quella canzone. Infatti hanno tirato fuori una roba totalmente diversa, appunto influenzata anche da una cultura che magari non hanno vissuto loro direttamente, quindi questa che hanno cosa assorbito. Che hanno assorbito, quindi voglio dire, è una cosa proprio che a parte noi nella zona emiliana dove viviamo noi assorbiamo davvero quella roba lì. Noi tra Modena dove abitiamo, insomma, siamo a 30 km da Ligabue, da Vasco, ci abbiamo tutti lì, no? E vuol dire, noi, le nostre corde sono quelle dell'energia del rock italiano, che poi dopo assorbe influenze, come diceva Andrea, le più diverse dei vari componenti la band, quindi una sua storia, da chi la più alternativa, chi la più rockeggiante italiana come io. Chiudiamo allora la seconda parte con la Steve Miller Band, un po' dimenticato ai nostri giorni. Il chitarrista californiano, la sua band, al disco Book of Dreams del 1977, con la grande hit radiofonica Jet Airliner. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco dei Controtempo dal titolo In tutti i giorni eroi. Stay tuned!